Due buchi, due bui, nel buio, abnormi. Due occhi, anfratti di lucore opaco. Due apatici, ossi buchi che spolpati e neri, nero, rutto di seppia, affondano fra quelle ciglia flagelli di Dio, ciglia gigliate, due villi, due aruspici frattaglie, agguantano ogni loro rado segnale, tremolio in borsa, sfiducia che spesa il governo di questi adocchiati, calazzi, guanciali le palpebre, un nervo sfilato, un raro segnale, adocchiando uno spaesamento, abbassano lo sguardo, due vili, chicchi senza semi, due acerbi ibernati, assorti nella distrazione, inintelligente sguardo che scavalca, scalpito, come potevo non farmi fuori, scalpitano due sevizie capitali, l'umido autunno che scende sul mio viso, rifratto da un loro rado segnale, come potevo non farmi fuori, aiutami, il negoziato negato, notti di sogni tetri e mattini luminosi, negati, l'umido autunno che scende sul mio viso, moccio di cispa, due gattini incimurriti, opali, due opali onici, onicofagici, fioritura di mughetti all'ombra di bocca neonata, due vecchi sdentati, due vecchi incontinenti, vinili straniti, rotano, scalpito, i nani guardano come i morti all'infinito si voltano, sono perduta, come potevo non farmi fuori, due stelle nane, nane giganti, implodono, arrossite, arrossiti, sfondati vaselli, nocchieri senza nocche, aiutami, frenano, frenano, ali di falena nel buio, due bui nel buio, sfarinacci, smarrisco ogni rado segnale, in interminabili pomeriggi d'autunno in cui fa buio presto. Perdo la vocazione, non vista, incistano una perdita di invocazione, non esclamano, negata esclamazione, malanno di stagione. Due autunni, umido muro di muschi, due topi muschiati, il mio viso, muro del pianto, compianto amore perduto, amore compianto negare, sempre negare l'evidenza, non congiunte vite, soffre di congiuntivite, come potevo non sciogliermi, deboli legamenti, in assenza di congiunti l'eredità si perdono, due nel crepuscolo, cruciali e stanchi crociati, o due criceti isterici gufano, e mianoptici, morbinosi, Basedorf, gonfi di giallo antipatico, o slabbrati come babbucce, calano, calunniando, l'umido autunno che scende sul mio viso, ne scapito, negromanti opali, inintermittenti e mianoptici sguardi, sguardi corpuscoli, oscurare, oscurare, oscurare, scostumati.